le scale. No, no, non è detto che vada tutto male. Oh, l'amministratore ci dà le mascherine. Oh, oh, il portiere fa la guardia sul confine. Siamo noi, condomini del mondo. Siamo noi, responsabili del mondo. Se c'è guerra, al terzo e al quarto piano, avvicinare la TV di più al divano. Oh, è così, non sentiremo più il baccano. Siamo noi, condomini del mondo. Siamo noi, in pantofole sul mondo. Mondo, mondo, tondo, tondo, tondo. No, se non sogni un mondo migliore, se non lo sogni, ferma la tua vita, ferma la tua vita e chiama il dottore. Se non sogni un mondo migliore, se non lo vuoi, ferma la tua vita, ferma la tua vita, chiama il tuo amico migliore. Se non sogni un mondo migliore, se non la vuoi, ferma la tua vita, ferma la tua vita, stop, fermala. E se il palazzo ha mille crepe sopra i muri, chiamare l'imbianchino che lo stucchi e lo pitturi. Siamo noi, condomini del mondo. Siamo noi, carri armati sopra al mondo. Mondo, mondo, tondo, tondo, tondo. Ma se non sogni un mondo migliore, se non lo sogni, ferma la tua vita, ferma la tua vita e chiama il dottore. Se non sogni un mondo migliore, se non lo vuoi, ferma la tua vita, ferma la tua vita, chiama il tuo amico migliore. Se non sogni un mondo